D'accordo, d'accordo che ho trovato due macellai nella stessa via ad una distanza l'uno dall'altro che non superava i 30 metri. Vabbè, d'accordo che nel primo un roast beef così così costava 44.000 al chilo e che nel secondo un roast beef niente male costava 25.000 al chilo, per cui vabbè, occorrerebbe fotografare tutti i clienti del primo. D'accordo su tutto questo, ma è indubbio che di solito la distribuzione sul territorio cittadino degli esercizi commerciali dovrebbe rispondere a criteri di dignitosa razionalità. Ne va della sopravvivenza della specie del negoziante, ne va della stessa salvaguardia del principio capitalistico che il negoziante ladro possa e debba sopravvivere alla faccia del negoziante onesto, ne va dell'ordine sociale. Ben inteso, il discorso non vale per tutti i generi commerciali. Le vie del sesso tipo Amsterdam o il parco della droga come c'era fino a qualche tempo fa a Zurigo sembrerebbero il risultato di un calcolo razionale diverso. Agglomerando una merce ideologicamente imbarazzante si pensa di ridurre l'imbarazzo. Ciò che diventa un solo punto in una cartina toponomastica lascia in grazia di ciò la natura di molteplice. Il preambolo vale per introdurre una riflessione sulla diffusione epidemica in Milano dei porchettari notturni. Definisco porchettari notturni quei lavoratori operanti su negozi mobili, dall'aspetto di camion dalle dimensioni più o meno cospicue, che offrono, solo a partire dalle ore piccole, generi alimentari vari e immancabilmente porzioni di porchetta arrostita. Da ciò la formula abbreviativa del porchettaro notturno. Allora, ne sono sorti un po' ovunque e presto, con la formazione di una clientela affezionata, più o meno ci hanno piantato le tende. Sono diventati riferimenti talmente fissi che a volte già troneggiano in sito, rigorosamente serrati e desertici, in pieno giorno, in attesa che la notte giunga loro propizia. Ne abbiamo avvistati di fronte al cimitero monumentale, alla stazione Garibaldi, allo scalo Farini, Piazza Repubblica, Piazzale Lodi, alla Darsena, al Parco Sempione, subito dopo il Palazzo della Triennale, il Parco Ravizza. Ma di certo la nostra mappa è ancora incompleta e sostanzialmente inaffidabile. Un censimento condotto con tutti i crismi della scientificità è ancora da venire. Orbene, anche il porchettaro notturno, come qualsiasi altro esercente, pone problemi in ordine alla razionalità della sua impresa. Ogni posto occupato, presumibilmente, è occupato in funzione di una clientela. E sulle prime vi dirò che nel tentativo di darmi una risposta convincente in proposito ho incontrato le mie belle difficoltà. Come avrebbe fatto chiunque, ho studiato il contesto. Prendete per esempio il porchettaro notturno che ha scelto di stazionare di fronte al cimitero monumentale, no? È vero, sì, al cimitero lavorano inesausti seppellitori. Accanto c'è l'Ente Nazionale dell'Energia Elettrica, se non vado errato, e poco distante c'è la caserma dei pompieri. Ma possono davvero quelli di costoro che svolgono la loro preziosa opera per la società tutta nelle ore notturne costituire una ghiotta clientela, uscire dai bui uffici dagli umidi anfratti e lasciare la frore della camerata con la sola idea fissa in testa di farsi una bella porzione di porchetta prima di concedersi al meritato riposo? Possono davvero, per fare un altro esempio, costituire una ghiotta clientela quei pochi eradi intellettuali disattenti all'ora di chiusura che si sono attardati nel cercare di soddisfare la loro inesauribile voglia di cultura nei pressi della Triennale? Davvero non hanno altro in testa che una succulenta porchetta agli stanchi ferrovieri del turno di notte alla stazione Garibaldi? Se poi, tuttavia, in cerca di conferme antropologiche si effettua una ricerca sul campo, ci si accorge che l'analisi del contesto, o almeno di quel contesto, è del tutto fuorviante. Già dai reggiseni, dagli impellicciamenti provvisori e volatili, perfino dai capezzoli e dagli stili di pettinatura del pelo puberale, ti accorgi subito che quella clientela non ha nulla a che fare con gli inesausti seppellitori, con i prodi pompieri e neppure con i solerti impiegati dell'azienda elettrica, o gli stanchi ferrovieri del turno di notte, o con gli attardati intellettuali in visita alla triennale. Ti accorgi che la realtà delle cosiddette metropoli avanzate ha consentito quel miracolo tutto moderno che consiste nella sovrapponibilità dei contesti, o meglio, nella loro sostituibilità, testualmente è il caso di dirlo, dal giorno alla notte. Corrisponde al sano principio economico del massimo sfruttamento delle strutture ambientali. Laddove a certe ore ferve un tipo di opera e di operatore, a certe altre ferve tutt'altro tipo di opera e di operatore, e coerentemente le infrastrutture al loro servizio vanno riadattate. Tira giù la Claire il terziario che pur avanzando è immobile, e la tira su un altro terziario che avanza, e che peraltro avanza di più, ed è mobile. Addetti alla prostituzione di ordine esecutivo e anche di ordine amministrativo, loro strutture di rinforzo, indotto culturale vario e loro assortita clientela costituiscono dunque la cospicua e sicura massa dei consumatori notturni di porchetta, e la distribuzione toponomastica dei porchettari notturni in pratica non fa una grinza. A differenza di tutti i piani regolatori che si sono avvicendati nel fortunato tentativo di rendere invivibile questa città, beh, qui tutto funziona e parrebbe baciato in fronte da una logica ferrea, ampiamente soddisfacente per tutti gli interessati.